Questi erano i mitici NoFX, band punk rock nata nel 1983 a Los Angeles, in California. Il brano All Out Against è tratto dall'ottavo disco So Long and Thanks for All the Shoes del 1997. Sono le 14.36, questa è Radio Tagada, Pasca la voce, come detto è Dynamite ai controlli e come detto prima, allora proviamo a farci una chiacchierata con Carla. Rispetto a tutto ciò che è avvenuto a San Basilio nel settembre del 74 e poi andiamo anche a fare due chiacchiere sulla presentazione del documentario Io sono Fabrizio e più in generale sulla due giorni di iniziative che sta attraversando Milano che è iniziata ieri appunto con la proiezione del documentario Sotto il cielo di piombo. Ieri sera è andato in onda I transiti sotto un cielo di piombo di Massimo Sestili, che comunque ci fa vedere la vita di come era negli anni 50, 60 e 70 nelle baracche e nelle occupazioni di Roma e quello che succedeva realmente alle persone che non avevano casa e vivevano nelle baracche e in particolar modo a quelli di Pietralata e dell'Acquedotto Felice, che sta sulla Casilina comunque, ok? Ok, allora se vogliamo iniziare, se ci vuoi descrivere un po' la situazione, insomma, di sommossa popolare, se proprio così possiamo dire, di opposizione popolare che c'è stata a San Basilio nel settembre del 74. Beh, prima mi sono dimenticata di salutare tutti, comunque ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, e mi presento, sono Carla Ceruso, la sorella di Fabrizio, ucciso a San Basilio l'8 settembre del 74 dalle forze dell'ordine. E ci sono stati 5 giorni di sgomberi durante prima dell'uccisione di Fabrizio, è cominciato tutto intorno al 4-5 settembre, dove gli occupanti li facevano uscire e poi rientravano, li facevano uscire e poi li rientravano, c'erano delle trattative in corso, c'erano quella domenica non si doveva sparare perché comunque il lunedì mattina si doveva c'era una trattativa in prefettura con il prefetto e con tutte le forze politiche dell'epoca per poter assegnare queste case, perché c'era chi era assegnatario e chi era baraccante occupato. E anche perché poi i baraccati e occupanti si erano uniti tutti quanti insieme ed erano entrati comunque, perché poi c'erano case che erano sfitte da oltre 10 anni e chiaramente la gente viveva nelle baracche, vedendo il film di ieri sera si capisce perfettamente che quelle baracche erano malsane, addirittura con le file con le file sui muri, con le file di zecche che camminavano sui muri delle baracche, e chiaramente con le dovute conseguenze per chi ci abitava, e l'aniene che straripava, cioè cose allucinanti. e quindi si erano uniti e erano entrati tutti. E quella domenica non si doveva sparare, c'era il coprifuoco. Qualcuno dall'alto ha dato l'ordine di sparare ad altezza d'uomo. Chi ci ha rimesso la pelle è stato mio fratello. Sono 48 anni che mio fratello è morto e, purtroppo non si è mai trovato il colpevole reale di chi ha sparato, perché è stato coperto, poi specialmente all'epoca, figuriamoci, le forze dell'ordine non si assumevano mai le proprie responsabilità, non è come oggi, e chiaramente questo colpevole è rimasto ignoto ai più, ma secondo me tra di loro lo sanno chi è stato a sparare, perché non è che non lo sanno, ho detto, l'hanno coperto. E noi io in particolar modo sono partita l'anno scorso con un viaggio, con un introspettiva teatrale, raccontando la storia di Fabrizio. Poi con San Basilio Infonet Infobook ci siamo trovati, che questa cosa comunque, se la mettevamo su video, era più una cosa più diretta per il pubblico, e quindi abbiamo deciso di fare questo docufilm che racconta la vera storia di Fabrizio. 18 anni sono pochi da raccontare, perché 18 anni non erano 19 come dicono i giornali o come dicono le varie fonti dell'epoca. Fabrizio aveva 18 anni e mezzo, 19 li avrebbe compiuti due mesi dopo, cioè a novembre, il 15 novembre del 1974. Ce l'aveva per millesimo, ma non ce l'aveva perché li aveva compiuti. E 18 anni, raccontare 18 anni di vita di mio fratello è stata dura, perché comunque io ho ripercorso a ritroso nel tempo tutto quello che noi abbiamo visto, dove abbiamo vissuto, nella Tivoli Vecchia, raccontando da dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati. E poi vi invito questa sera a venire a vedere il docufilm, perché ne vale veramente la pena, almeno secondo me. Grazie. Sì, abbiamo con noi anche il regista, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro in più rispetto al documentario. Io sono... Sì, ok. Ciao a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Beh, a 48 anni di storia la storia si ripete. È la stessa storia, rimaniamo qui a celebrare purtroppo le persone scomparse, ma lo dobbiamo fare ancora con più fermezza. Abbiamo fatto questo lavoro con Carla raccontando un po' la vita di Fabrizio, quello che fino ad oggi, anche dopo a distanza di 48 anni, non era stato raccontato. Una vita sua personale, una retrospettiva all'interno della sua famiglia, la conoscenza delle strade dove lui è cresciuto. Ho voluto proprio con Carla evidenziare questa cosa, perché ogni volta raccontiamo delle persone, generalmente le ricordiamo sempre con manifestazioni, con momenti di lotta, con momenti di dolore, perché questi sono momenti di dolore. Ricordare ogni amico nostro che abbiamo perso su questo percorso è un momento di dolore, ancor più è quando viene ucciso da una mano. In questo caso rimane quella mano ignota che rimane oscura a tutti quei morti che abbiamo avuto. E lo dico da fratello e da amico, perché erano amici, erano fratelli, erano a volte anche compagni, e soprattutto compagni in alcune situazioni. Abbiamo scelto di venire qui a Milano a presentare questo documentario film come incoraggiamento, per capire che sono più importanti i rapporti sociali che abbiamo fra di noi. Questa è una cosa che abbiamo voluto marcare profondamente nel video, perché le storie vanno conosciute bene, e non dobbiamo dare a nessuno il modo di raccontare la nostra storia. Siamo noi, io sono nato a Pietralata, sono cresciuto con DNA di occupante, sono 40 anni che occupo e tutt'oggi sono un occupante di casa, per cui ce l'abbiamo nel DNA, e questo DNA ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo nei nostri posti ancora oggi aperti e ce l'abbiamo con tutte le battaglie per una giustizia migliore dentro a questo mondo. Ringraziamo di cuore i ragazzi per l'assemblea della sanatoria di Via Gola, che sono stati insieme a noi i promotori di questa iniziativa. Volevamo ricordare e salutare con cuore Dax, perché è un compagno anche nostro, perché è una figura, e la memoria la dobbiamo raccontare noi, e va raccontata nella giusta maniera. Questo è importante, che anche questo documentario lanci questo segnale come incoraggiamento a tutti quanti. Su una storia personale non ha niente di eclatante, è una storia normale, è una persona di una persona che si impara a conoscere, e questo forse è più profondo di tante lotte. Ricordiamo che la maggior parte delle lotte, come quella di San Basilio, io sono un occupante da 33 anni a San Basilio, San Basilio ha vinto perché ha vinto la spontaneità popolare, sì, comitati sicuramente che lavoravano sulla casa, ma i quartieri partecipano quando è la spontaneità che avanza, quando l'ingiustizia si vede con gli occhi, la vedono tutti. In quell'occasione furono i mobili che la gente povera, i baraccati poveri possedevano, la distruzione di quei mobili portò a ribaltare la situazione, a portare giù i pali della luce, a non fare più entrare nessuno dentro San Basilio. La violenza dentro San Basilio non doveva entrare, la violenza delle forze dell'ordine non doveva entrare, come la violenza dei fascisti nei nostri territori che controllano la droga non devono entrare. Per cui ancora oggi con più fermezza ringraziamo ancora di più i ragazzi di Gola, siamo qui e stasera vi invitiamo a tutti quanti a vedere questo spettacolo. Grazie anche alla trasmissione Tagadà, che ci ha dato la possibilità di questo spazio, creando questa radio volante qui dall'interno di Via Gola. Grazie, un saluto a pugno chiuso a tutti i compagni. Sì, poi tra l'altro parlare di questi argomenti a Milano è più che mai attuale. Ricordiamo che comunque tutta una serie di occupazioni anche qui a Milano alloggi sono sotto attacco. Un mesetto fa circa è stata sgomberata Via Bolla, una delle palazzine di Via Bolla, con più di 90 appartamenti sgomberati, e lo sgombero di Via Bolla e la riqualificazione poi di quella zona là è il progetto pilota che dovrà investire anche queste tre vie, dove da ormai 30 anni la lotta per la casa va avanti, dove in Via Gola, in Via Pichi e in Via Borsi, insomma, le occupazioni vanno avanti, si prova insomma a contrastare l'ALER, che al posto di assegnare le case continua a distruggerle e a lamerarle e a farle rimanere vuote. Poi dopo andremo anche a parlare con un compagno di ciò che accadrà, la riqualificazione che avverrà nella zona sud-est di Milano, e parleremo anche di Corvetto. Ricordiamo che anche un paio di settimane fa ci sono stati, nel giro di una settimana, tre sgomberi in Corvetto, anche lì ci sono svariate occupazioni e anche lì i compagni attraversano quel quartiere. Noi ringraziamo i compagni, prima di, tra virgolette, congedarli, volevamo chiedere se ci sono altre date o comunque se la presentazione del docufilm in giro per l'Italia avverrà in altre città. Sì, ci sono altre date che ci devono anche essere ancora comunicate, e ce l'hanno chiesto in tutta Italia: Bologna, Taranto, Messina, Palermo e altre città italiane, credo anche Firenze se non vado errata, e anche Torino e Bergamo. E vediamo quando i compagni si metteranno in contatto con noi e ci faranno sapere le date successive, ok? Perfetto, allora noi vi salutiamo e vi ringraziamo, tanto poi dopo ci vedremo qui questa sera durante l'iniziativa. Speriamo vivamente, insomma, di ribeccarci a marzo 2023, quando ci saranno le quattro giornate per Dax. E ora andiamo avanti con la prima doppietta musicale della giornata. Ci sentiamo gli Arcade Fire con Rebellion Lies.